Ad alta voce, Anna Bonaiuto legge La sovrana lettrice di Alan Bennett. Traduzione di Monica Pavani. Martedì pomeriggio la regina incontrava il primo ministro che la indottrinava. La stampa però amava descrivere gli appuntamenti come quelli di una sovrana saggia ed esperta che metteva in guardia il primo ministro contro ogni possibile insidia, attingendo dal suo incomparabile bagaglio cinquantennale. Era un mito che il palazzo concorreva a creare, ma la verità era che i primi ministri in carica ascoltavano sempre meno e parlavano sempre di più, mentre la regina annuiva o forse scrollava il capo. Inizialmente volevano che lei li tenesse per mano e andavano a trovarla per avere una carezza, come i bambini che vogliono far vedere alla mamma le loro prodezze. Anche perché quello che si voleva da lei, come sempre, era un'esibizione di interesse o di approvazione. Per gli uomini, quindi Thatcher inclusa, quello era l'importante. Quando erano freschi di nomina, i primi ministri la ascoltavano e le chiedevano perfino consigli, ma poi, con allarmante omogeneità, finivano invariabilmente per assumere un tono saccente. Non volevano più essere incoraggiati e trattavano la regina come un pubblico. Ascoltarla non era più all'ordine del giorno. Gladstone non è stato certo l'unico a rivolgersi alla regina come se stesse tenendo un comizio. Quel martedì l'udienza si era svolta seguendo il solito iter e solo verso la fine la regina riuscì a infilare una parola su un argomento che le premeva veramente. «Il mio discorso di Natale in televisione». «Sì, maestà», disse il primo ministro. «Pensavo che quest'anno potremmo fare qualcosa di diverso». «Di diverso, maestà?» «Sì. Per esempio, potrei stare allo scrittoio a leggere o, in modo ancora più informale, seduta comodamente sul divano con un libro in mano. La telecamera potrebbe avvicinarsi finché non sono in piano medio, è così che si dice. Dopodiché potrei alzare gli occhi e dire... «Sto leggendo un libro che parla di questo e di quest'altro» e proseguire da lì. «E che libro sarebbe, maestà?» Il primo ministro aveva l'aria afflitta. «Dovrei pensarci. Magari sullo stato del pianeta», si illuminò l'altro. «Anche, ma di quelle cose ce n'è già abbastanza sui giornali. No, pensavo piuttosto alla poesia». «Alla poesia, maestà!» Il primo ministro si sforzò di sorridere. «Thomas Hardy, per esempio. L'altro giorno ho letto una sua poesia fantastica su come il Titanic ha incontrato l'iceberg che lo ha affondato. Si chiama La convergenza dei due. La conosce?» «No, maestà. Ma in che modo potrebbe servire?» «Servire a chi?» «Beh», e il primo ministro sembrò un po' imbarazzato a doverlo dire espressamente, «al popolo». «Oh, certo», disse la regina, «dimostrerebbe, non crede, che siamo tutti soggetti al destino». Sua maestà fissò il primo ministro sorridendo con aria rassicurante. Lui si guardò le mani. «Non sono sicuro che il governo sia nella posizione di avallare un simile messaggio. La gente non doveva essere indotta a ritenere che il mondo fosse ingovernabile. Da lì al caos, o alla sconfitta alle urne, che era la stessa cosa, il passo era breve». «Mi risulta», e questa volta fu il primo ministro a fare un sorriso rassicurante, «che c'è un ottimo filmato sulla visita di Sua Maestà in Sudafrica». La regina sospirò e suonò il campanello. «Ci penseremo». Il suo interlocutore capì che l'udienza era conclusa nel momento in cui Norman aprì la porta e rimase in attesa. «E questo, pensò il primo ministro, sarebbe il famoso Norman». «Oh, Norman», disse la regina, «a quanto pare il primo ministro non ha letto Hardy. Le dispiacerebbe cercargli uno dei nostri vecchi tascabili?» Con sua leggera sorpresa, la regina alla fine riuscì a fare di testa sua e, anche se non era comodamente seduta sul divano ma allo scrittoio e non leggeva la poesia di Hardy, scartata perché poco progettuale, cominciò il suo discorso di Natale con il paragrafo iniziale di Le due città. Erano i giorni migliori, erano i giorni peggiori, che fu di grande effetto. E poiché aveva scelto di leggere non dal gobbo ma direttamente dal libro, agli spettatori più anziani, ovvero la maggioranza, ricordò quel genere di maestra che leggeva in classe a voce alta. Incoraggiata dall'entusiasmo con cui venne accolto il discorso di Natale, Sua Maestà rimase dell'idea di leggere in pubblico e una sera tardi, nel chiudere il libro sulla pacificazione religiosa di Elisabetta I, le saltò in mente di telefonare all'arcivescovo di Canterbury. Si sentì una pausa mentre lui andava ad abbassare la TV. «Arcivescovo, perché io non faccio mai la lettura?» «Chiedo scusa, maestà». «In chiesa. Vanno tutti a leggere tranne me. Non sta scritto da nessuna parte, vero? Non è mica proibito?» «Non che io sappia, maestà». «Perfetto. Beh, allora comincerò a farlo. A noi due, Levitico. Buonanotte». L'arcivescovo scosse il capo e tornò alla sua puntata di Ballando con le stelle. Da lì in poi, specialmente in Scozia o nel Norfolk, Sua Maestà fece sempre il suo numero al microfono. E non si limitò a quello. In una scuola elementare nel Norfolk si mise a sedere su una seggiolina e lesse ai bambini una storia di Babar. In occasione di un pranzo ufficiale in un municipio, elargì agli astanti una poesia di Benjamin. Tutte impreviste deroghe al programma che suscitavano l'ammirazione generale, ma non quella di Sir Kevin, del quale non si preoccupava di chiedere il via libera. Anche la cerimonia della piantatura di un albero si concluse con un fuori programma. Dopo aver conficcato leggermente un querciolo nel terreno bonificato di una brulla fattoria urbana sopra il Midway, Sua Maestà si appoggiò al badile di rito e recitò a memoria la strofa finale della poesia «Gli alberi» di Philip Larkin. «Eppure, infaticabili, quei castelli insistono a infoltirsi a ogni maggio. Un altro anno è morto, sembrano dire. Si ricomincia da capo, da capo, da capo». E mentre l'inconfondibile e limpida voce si propagava sull'erba spelacchiata battuta dal vento, fu come se la regina non si rivolgesse solo alla delegazione dei funzionari comunali, ma anche a se stessa. Era alla sua vita che stava facendo appello. Era lei a ricominciare da capo. Per quanto la lettura l'assorbisse, Sua Maestà non si sarebbe mai aspettata che la svuotasse di entusiasmo per tutto il resto. La prospettiva di inaugurare l'ennesima piscina coperta non le aveva mai fatto fare i salti di gioia, ma non per questo ci andava malvolentieri. Nonostante il tedio delle sue incombenze, presiedi questo, conferisci quell'altro, non si era mai annoiata. Quello era il suo dovere e non c'era stata mattina in cui non avesse aperto l'agenda con interesse o curiosità. Ma era acqua passata. Ora la regina scorreva con terrore l'incalzante serie di viaggi e impegni che riempivano gli anni a venire. Riusciva a stento ad avere una giornata tutta per sé. Due mai. Improvvisamente tutto era diventato un peso. «Sua Maestà è stanca», diceva la cameriera sentendola gemere davanti allo scrittoio. «Ogni tanto dovrebbe concedersi un po' di relax». Non era tanto quello. Era colpa dei libri. E a volte lei si pentiva di aver cominciato a leggerli, a entrare in altre vite. Era come un tarlo nella testa. Intanto andavano e venivano i visitatori più illustri, fra cui il presidente francese che si era dimostrato così scarso al riguardo di Jean Genet. Sua maestà lo riferì al ministro degli esteri nel corso dei colloqui che di solito seguivano le visite, ma nemmeno lui ne aveva mai sentito parlare. «Certo», continuò la regina, tralasciando i commenti del presidente sugli accordi monetari anglo-francesi, «sì, era stato nullo sul versante di Genet, un habitué della sala da biliardo, ma si era rivelato una miniera riguardo a Proust, che per la regina era sempre stato solo un nome. Il ministro degli esteri non conosceva nemmeno quello e così sua maestà poté metterlo un po' al corrente. Poveretto, una vita infame, un martire dell'asma. Il tipo di persona a cui viene da dire, insomma, tirati un po' su. Ma la letteratura è piena di gente così. La cosa strana era che quando ha intinto un pezzo di dolce nel tè, pessima abitudine, gli è tornato in mente tutto il suo passato. Sa, ci ho provato anch'io e non mi ha fatto nessun effetto. Magari non era il dolce giusto, maestà, disse il ministro degli esteri prima di tornare agli accordi monetari. La lacuna della regina su Proust, a differenza di quella del ministro degli esteri, era destinata a essere presto colmata. Norman andò subito a cercarlo su internet e, dato che il suo romanzo si componeva di 13 volumi, pensò che sarebbe stata la lettura ideale per le vacanze estive di Sua Maestà a Balmoral. Si poteva anche aggiungere la biografia di Proust di George Painter. La regina, vedendo allineati sul suo scrittoio i volumi con la sovracoperta azzurra e rosa, pensò che avevano quasi un'aria commestibile, neanche provenissero dalla vetrina di una pasticceria. Fu un'estate bruttissima, fredda, piovosa e inutile. La sera i cacciatori brontolavano perché i carnieri erano vuoti. Ma per la regina e per Norman fu idilliaca. Raramente l'universo di quel libro e il luogo in cui veniva letto erano stati in maggiore contrasto. Mentre quei due erano immersi nelle sofferenze di Swann, nella volgarità piccina di Madame Verdurin e nelle assurdità del barone de Charlus, le colline fradice riecheggiavano di vacue fucilate, mentre il povero cervo di turno, stecchito e zuppo, veniva trascinato nell'atrio. Era dovere del primo ministro partecipare per qualche giorno, insieme alla moglie, al ritiro fuori città. Non era un gran tiratore, ma si riprometteva almeno di accompagnare la regina in qualche passeggiata per la brughiera, dove, come diceva lui, sperava di fare due chiacchiere. Ma conosceva Proust ancor meno di Thomas Hardy e così restò deluso. Per i tête-à-tête nessuna occasione. Subito dopo colazione, Sua Maestà si ritirava nello studio con Norman. Gli uomini partivano sulle Land Rover per un'altra frustrante giornata e il primo ministro e la moglie restavano abbandonati a se stessi. Magari si trascinavano con i cacciatori tra l'erica della brughiera, facendo uno scomodo picnic bagnaticcio con loro, ma nel pomeriggio, esaurito lo shopping locale con un plaid di tweed e una scatola di biscotti al burro scozzesi, si mettevano in un remoto angolo del salotto a giocare tristemente a Monopoli. Quattro giorni del genere furono sufficienti e con un pretesto, disordini in Medio Oriente, primo ministro e signora decisero di partire anzitempo. Come commiato si organizzò in fretta e furia una serata di charade. La scelta delle parole da mimare è una delle prerogative meno note della regina e ancora meno note si rivelarono le frasi da indovinare, che rimasero un enigma per tutti, primo ministro incluso. Costui non aveva mai sopportato di perdere, neanche con la regina, e non lo consolò a prendere da uno dei principi che nessuno poteva sperare di vincere se non la regina, dato che le sciarade, molte delle quali riferite a Proust, erano state pensate da Norman sulla base delle loro letture. Il primo ministro era seccatissimo, molto più che se Sua Maestà avesse riesumato una quantità di privilegi decaduti da un pezzo. E non appena rientrò a Londra, ancora prima di disfare i bagagli, chiese al suo consigliere speciale di contattare Sir Kevin, il quale gli espresse la sua solidarietà, sottolineando che Norman era diventato un peso per tutti. Il consigliere speciale rimase impassibile. «Ma questo Norman è una checca?» Sir Kevin non era sicuro, ma pensava di sì. «E lei lo sa? Sua Maestà? Probabilmente. E la stampa?» «Credo che la stampa, disse Sir Kevin contraendo le guance, sia meglio tenerla fuori. Appunto, quindi posso contare che se la sbrighi lei». Il programma prevedeva un'imminente visita di Stato in Canada, un onore che Norman aveva pensato bene di saltare, preferendo tornare a Stockton-on-Tees per fare le ferie a casa. Comunque, si occupò lui di tutti i preparativi e imballò con cura una cassa di libri destinati a tenere impegnata Sua Maestà durante il tragitto da una costa all'altra. Per quel che ne sapeva Norman, i canadesi non erano un popolo di lettori e il programma era così fitto che difficilmente la regina sarebbe riuscita a entrare in una libreria. Lei non vedeva l'ora di partire per via dei lunghi spostamenti in treno. Si figurava mentre attraversava il continente assorta nella lettura di Pepys, autore che stava leggendo per la prima volta. Però quel tour, perlomeno all'inizio, si rivelò un disastro. La regina era annoiata, cupa e poco collaborativa. Il suo seguito ne avrebbe prontamente dato la colpa alla lettura, non fosse che Sua Maestà non aveva libri con sé, perché quelli imballati da Norman erano andati perduti. Spediti da Heathrow insieme alla comitiva reale, mesi dopo comparvero a Calgary, dove offrirono lo spunto per un'insolita mostra nella biblioteca locale. Nel frattempo, però, Sua Maestà non sapeva come occupare la mente e invece di focalizzarsi sul target, come aveva sperato Sir Kevin quando aveva dirottato i libri, diventò solo impaziente e scorbutica. All'estremo nord, i pochi orsi polari che gli organizzatori erano riusciti a radunare ciondolarono a lungo in attesa di Sua Maestà, ma lei non si fece vedere e pensarono bene di spostarsi verso una banchisa più allettante. Né i lastroni di ghiaccio che scivolavano nelle acque gelide, né i tronchi che intasavano il passaggio suscitarono la curiosità della visitatrice reale, che si guardò bene dal lasciare la cabina. «Non vuoi venire a vedere la via marittima del San Lorenzo?» le chiese il marito. «L'ho inaugurata 50 anni fa. Dubito che sia cambiata». Anche le montagne rocciose ricevettero solo un'occhiata distratta e le cascate del Niagara non furono nemmeno degnate di uno sguardo. «Le ho già viste 3 volte». Così il duca ci andò da solo. Il caso volle però che a un ricevimento di personalità canadesi appartenenti al mondo della cultura la regina si trovasse a parlare con Alice Munro e una volta saputo che scriveva romanzi e racconti, le chiedesse un suo libro, che le piacque moltissimo. E la cosa non finì lì, perché scoprì che ne erano usciti parecchi altri, così l'autrice glieli fece avere prontamente. «Non conosco piacere più grande», confidò la regina al suo vicino, il ministro canadese per il commercio con l'estero, «che trovare un autore che amo e poi scoprire che non ha scritto solo un paio di libri, ma almeno una dozzina». E tutti, ma questo lo tenne per sé, in edizione economica, quindi facili da nascondere in borsetta. Venne subito imbucata una cartolina indirizzata a Norman, dove gli veniva richiesto di procurarsi i pochi volumi esauriti della Munro affinché la regina li trovasse al suo ritorno. Che bellezza! Ma Norman non era più a palazzo. Il giorno prima di partire per le delizie di Stockton-on-Tees, Norman venne convocato nell'ufficio di Sir Kevin. Il consigliere speciale del primo ministro aveva detto di licenziarlo. Sir Kevin detestava il consigliere speciale. Nemmeno Norman gli stava simpatico, ma sempre più dell'altro. E fu così che il cameriere della regina cascò in piedi. Inoltre, per Sir Kevin, il licenziamento era una cosa volgare. C'era una soluzione migliore. A Sua Maestà sta molto a cuore che i membri del personale migliorino la propria posizione, disse il segretario privato con aria benevola. È più che soddisfatta del suo lavoro, ma si chiede se lei abbia mai pensato all'università. All'università? Esclamò Norman cadendo dalle nuvole. Nello specifico, l'università dell'East Anglia. Hanno un ottimo dipartimento di inglese e anche un corso di scrittura creativa. Solo per farle qualche nome... E Sir Kevin abbassò lo sguardo sul suo notes. Ian McEwan, Rose Tremaine e Katsuo Ishiguro. Sì, disse Norman. Li abbiamo letti? Il segretario trasalì a quel noi e disse che secondo lui quell'università era proprio quello che ci voleva. «E come dovrei pagarmela?» chiese Norman. «Non ho soldi». «Non si preoccupi di quello. Vede, Sua Maestà tiene a che le sue capacità vengano valorizzate appieno». «Io preferisco restare qui», disse Norman. «È sempre un modo per farmi una cultura». «Sì», annuì il segretario privato, «ma non è possibile». Sua Maestà ha in mente qualcun altro. Volendo però, sorrise con aria rassicurante, può sempre tornare a lavorare nelle cucine. E fu così che la regina, al rientro dal Canada, non trovò Norman seduto come sempre in corridoio. Non solo la sua sedia era vuota, ma era scomparsa insieme a quella deliziosa pila di libri che ormai si era abituata ad avere sul comodino. E soprattutto non c'era nessuno con cui discorrere dei meriti di Alice Munro. «Non era ben voluto, maestà», la informò Sir Kevin. «Era ben voluto da me», disse la regina. «Dov'è andato?» «Non ne ho idea, maestà». Norman, da ragazzo sensibile qual era, scrisse alla regina una lunga lettera confidenziale sui corsi che stava seguendo e sulle letture che doveva fare, ma quando ricevette una risposta che esordiva con «La ringrazio delle notizie che Sua Maestà ha preso con estremo interesse», capì di essere stato fatto fuori, solo non sapeva se dalla regina o dal segretario privato. Sua Maestà, invece, non aveva dubbi su chi avesse architettato la sua partenza. A Norman era toccata la stessa sorte della biblioteca circolante e della cassa finita a Calgary. Come il libro nascosto dietro il cuscino nella carrozza, era già tanto che non lo avessero brillato. Norman le mancava, questo era indubbio, ma non ricevendo da lui né una lettera né un biglietto, non poté far altro che proseguire per la sua strada. La sua assenza non l'avrebbe comunque distolta dalla lettura. Può sembrare strano che la regina non fosse addolorata dall'improvvisa partenza di Norman, ma non per questo bisogna giudicarla male. La sua vita era sempre stata costellata da assenze improvvise e partenze inaspettate. Per esempio, se qualcuno si ammalava, era raro che ne venisse informata. Si riteneva di doverla esonerare, in quanto regina, da sentimenti quali angoscia e compassione, o perlomeno i cortigiani la pensavano così. Quando poi la morte, come purtroppo accade, si portava via un domestico o anche un amico, Spesso la regina scopriva solo allora che c'era un problema. Non dobbiamo preoccupare Sua Maestà era il principio osservato da tutta la servitù. Norman, naturalmente, non era morto, era solo andato all'università dell'East Anglia, ma dal punto di vista degli attendenti era un po' la stessa cosa, perché una volta svanito dalla vita di Sua Maestà, cessava di esistere. Né lei né nessun altro lo nominavano più. Non che Sua Maestà andasse biasimata, su questo gli attendenti erano tutti d'accordo, la regina non andava mai biasimata. C'è gente che muore, gente che se ne va e, sempre più spesso, gente che rilascia interviste ai giornali. In un modo o nell'altro erano sempre dipartite. Loro se ne andavano e lei restava. A onor del vero, la regina, prima della misteriosa partenza di Norman, aveva cominciato a chiedersi se non lo stava superando. Nei primi tempi lui era stato una guida umile e diretta nel mondo dei libri. L'aveva consigliata, senza esitare a dirle quando riteneva che non fosse ancora pronta per un libro. Per un bel pezzo, per esempio, l'aveva tenuta lontana da Beckett e da Nabokov e solo pian piano l'aveva iniziata a Philip Roth, rimandando il più possibile il lamento di Portnoy. Con il passare del tempo, però, Sua Maestà aveva cominciato a leggere quello che le andava e Norman faceva lo stesso. Parlavano di quello che leggevano, ma la regina capiva che la sua vita e la sua esperienza la mettevano in una condizione di superiorità. I libri da soli servono fino a un certo punto. Aveva anche imparato che le predilezioni di Norman potevano essere sospette. A parità di merito, lui tendeva comunque a preferire autori gay, motivo per cui la regina conosceva Genet. Certi le piacevano anche, per esempio era affascinata dai romanzi di Mary Renault, ma non era entusiasta del filone più deviante. Denton Welch, per dirne uno, tra i preferiti di Norman, le sembrava piuttosto morboso. Isherwood, troppe lucubrazioni, manca il tempo. Come lettrice, Sua Maestà era spedita e diretta, non voleva crogiolarsi in nulla.